Ah! Nel senso, Salla? No, vabbè, introduci tu. No, volevo, ho messo a registrare perché volevo che finissi la frase. Vabbè, comunque... Purtroppo non c'è stato l'effetto, non c'è stato l'effetto successivo. Come faccio io? Come faccio? Come fai tu a farlo sneaky? Ah, perché registri da... Sì. Da un'altra parte, sei stronzo. Pensavo che si potesse fare. Vabbè. Salve a tutti, comunque, benvenuti, benvenuti a questa puntata 5, credo, del nostro sì, podcast. La quinta puntata. Sì, perché la quarta era Select Character. Mm-hmm. E benvenuti a Fuoco Elettrico, io sono Jacopo. Io sono Marco. Miau, questo... proprio così. Esatto, e quest'oggi abbiamo anche un ospite, come potete sentire. Esatto, l'abbiamo pagato per dire la frase che doveva dire il Team Rocket, è Salla, e è qui con noi per dare la sua visione esperta, scientifica della questione, perché esatto. Oggi parleremo di scienza e come la scienza ha influenzato i videogiochi e come i videogiochi hanno influenzato la scienza. In questo episodio, che direi di dire anche come si chiama... This was a triumph, e in realtà per chi non sapesse, This was a triumph è una frase famosa di Portal, che in realtà con la scienza c'entra poco, solamente, è solamente un flavor, diciamo, solamente un po' la ambientazione. Diciamo che una cosa interessante anche di alcuni videogiochi è come l'ambientazione scientifica, tra virgolette, faccia parte del gioco stesso. Portal è un esempio, ma non è di questo che parleremo questo. Sì, porta, diciamo, altre tematiche che c'entrano con la scienza, non è quello di cui vogliamo parlare in questo episodio. Salla, dicevi, introduciti e di quello che stavi dicendo prima. No, volevo dire che non sono un videogiocatore, quindi io sono qua per sbaglio. E non mi definisco un videogiocatore, sono più un casual gamer, non so se... Ma non è vero, non è vero. Ma Salla sarà un ospite ricorrente per altri episodi, magari parleremo un po' di gestionali, torneremo su altri argomenti presentati oggi, insomma. Io gioco solo a strategici gestionali, quindi... No. Infatti, non si può definire un hardcore gamer, perché quelli sono più i giocatori che giocano a tutto, qualsiasi cosa esce loro ci devono giocare. Però lui è più quello che definirei un deep gamer, quello che sceglie un gioco e poi dopo lo esplora fino a conoscerne. L'ultimo esempio da prendere, cioè io non ho mai avuto una console in tutta la mia vita, quindi sono proprio l'ultimo esempio di giocatore da prendere in esame. Vabbè, ok, allora Salla non gioca, va bene, pure la finita e sti cazzi. Va bene, ciao. Volevamo dire, allora, la puntata sarà divisa più o meno, ma in realtà no, in due o tre blocchi. Il primo blocco sarà su come la scienza ha influenzato i videogiochi, e il secondo sarà al contrario. Quindi prima parte, appunto, vabbè, possiamo cominciare anche subito. Sì, vado a scaricare la lavatrice io, quindi. Cosa? Beh, eccesso. E se ai nostri ascoltatori piacciono queste battute sagaci e, come dire, questo umorismo raspante, possono trovare il nostro possono trovare il nostro ospite anche nel suo podcast. Sì, se vuole ci possono podcast trovare, padre, possono podcast madre. Su il mio salotto, che in questi giorni uscirà, ma magari questo episodio esce tra 25 settimane, non so quando finisce la quarantena. Uscirà questo episodio, uscirà in concomitanza con l'anniversario del salotto, probabilmente. Ah, vedi, ci sarà, quindi, o ci sarà stata a breve un episodio fico del nostro compleanno di un anno, in cui parleremo di una roba pallosa in realtà, perché è uscito così. Come crescono in fretta. Esatto. Qui dicevamo, allora, questa puntata, diciamo, Salla si è proposto di farla, ci ha proposto l'argomento, quindi è un po' una pausa dalla nostra programmazione ossessivo-compulsiva. E, cazzo, vi ho distrutto, quindi. Ci hai distrutto il tempo, il ritmo. No, si può dire cazzo. Cazzo. Sì, sì, sì. Explicit. Merda, speriamo di sì. Volevo parlare di come la scienza ha influenzato i videogiochi. Allora, inizialmente i videogiochi erano solo un passatempo, anche per chi li faceva, erano un po' così, cioè fatti un po' alla bella e meglio. All'alba dei tempi, sto dicendo roba tipo Pong. Anche i dinosauri giocavano solo a Pong. Esatto. A dadi, e non ci riuscivano bene a raccoglierli. Invece adesso, diciamo, dietro alcuni videogiochi c'è un sacco di studio, un sacco di... ci sono articoli, ci sono ricerche, ci sono veramente interi dipartimenti dedicati a studiare sta roba. E, però viene studiata sotto diversi punti di vista. Ora, uno dei punti di vista, diciamo, quelli più ovvi, tra virgolette, che ha un beneficio immediato per i videogiochi, è quella la parte tecnica, quindi... sto parlando proprio di avanzamenti nella scienza e nella tecnica, tipo appunto nella costruzione di pezzi fisici e di silicone, cioè di dei chip dentro il computer, dentro le console, che permettono di fare certe cose. Quindi, per esempio, ultimamente sono uscite delle schede grafiche che hanno dentro dei chip di cioè ottimizzati per intelligenza artificiale e per il famoso ray tracing. Molto velocemente, perché non voglio che l'argomento sia quello, magari faremo una puntata su sta roba tecnica in futuro. Molto velocemente sarebbe cioè principalmente fa due cose: uno, la parte di machine learning e di intelligenza artificiale permette di prendere un'immagine a bassa risoluzione e farla uscire a risoluzione più alta, come magia. Non è, ecco, una cosa molto complicata, cioè in pratica hanno addestrato. Consigliamo un sito che si chiama Google per cercare queste cose, non so se lo conoscete. No, magari tornarvi utile. Faremo l'episodio su questa roba, però è abbastanza complicata. C'è un modo semplice per spiegarlo, no? Un modo semplice sarebbe, tu hai un gioco, per esempio un gioco famoso tipo Final Fantasy XV o che cazzo ne so, o Doom. Ci fai girare un super computer che comincia a guardare questo gioco che gira, cioè a guardare immagini di questo gioco, e gli fanno vedere un'immagine a bassa risoluzione e la stessa immagine ad alta risoluzione, lui le collega e piano piano, dopo tanto tempo, si allena a passare dall'una all'altra, cioè da quella bassa a quella alta, perché per un computer, per una console è difficile, molto, diciamo, ci vuole molto tempo a fare un'immagine a più alta risoluzione, ovviamente. E quindi, diciamo, tramite questi algoritmi di machine learning è un po' più veloce per una console fare queste immagini a più alta risoluzione. Questa è la parte 1 di machine learning. La parte 2 è ray tracing, è un po' più importante per il futuro dei videogiochi. Ed è, diciamo, questo è un discorso un po' più generale, adesso ci entreremo un po' più in dettaglio in altri punti. Però nei videogiochi, quando tu vedi un fenomeno fisico, tipo una mela che cade o una scatola che si rompe, è una roba un po' approssimativa. Non so se Marco tu volevi parlarne un po' più nel dettaglio. No, continua tu, poi aggiungo qualcosa io, appena finito. Perché appunto i fenomeni fisici, cioè riprodurre un fenomeno fisico in un videogioco ha dei calcoli complicati, ci metterebbero troppo tempo i computer a farli, non sarebbe reattivo. Quindi di solito ci sono dei modelli molto semplici sotto, quando vedi anche nei simulatori non sono modelli reali di come funziona la fisica, anche a livello macroscopico, cioè anche a livello non quantistico ovviamente. Una cosa molto semplificata nei videogiochi finora è la luce, cioè tu quando vedi un oggetto nella vita reale c'è un raggio che viene sparato, c'è un sacco di fenomeni fisici associati col vedere cose. Che adesso sto qua a spiegare perché manco li conosco. Nei videogiochi finora era molto facile, era un sistema molto molto semplificato, basato principalmente su falsità, molto, molto bugiardo come sistema, e triangoli. Invece adesso con il ray tracing è molto più simile alla realtà, perché è molto, cioè essenzialmente spari un raggio e lo fai rimbalzare su superfici e vedi dove finisce. Allo stesso modo spari un raggio dall'occhio per vedere cosa vede quell'occhio, spari un raggio da una fonte di luce per vedere dove finiscono i fotoni e bla bla bla, tutti questi conti che fino a 2 anni fa erano roba che facevano solamente tipo la Pixar, cioè solamente roba tipo di film che puoi spenderci anche 2 ore per fare un fotogramma. Anche perché immagino che nel film poi sia statico e non è che... Cioè, esatto. Una volta che l'hai fatta, non si perdi tempo, rimane lì. Esatto. Invece nel videogioco deve essere cioè deve essere abbastanza responsivo. Esatto, perché nel film tutto è statico, cioè tutto è deciso prima. Il movimento della telecamera, i materiali, la luce, tutto quanto. Invece nel gioco magari puoi spostare la visuale, puoi spostare una torcia, puoi sparare una luce. Vabbè, comunque, questo per dire, ci sono proprio formule fisiche, cioè proprio fenomeni che vanno replicati nei videogiochi, e adesso ci stiamo avvicinando su alcuni a replicare alcuni di questi fenomeni un po' più... in maniera un po' più, come si dice? Realistica. Realistica, fedele, sì. Rapida. Rapida, esatto. Questo... Non so cosa volevi dire. No, tu ti senti, sì, sia in tempo reale che in maniera realistica. Esatto. E non so se Marco voleva aggiungere qualcosa. No, non sono d'accordo su anche Salla. Sono cazzi di sta roba. No, volevo giusto concordare sul discorso che effettivamente negli ultimi tempi il realismo nei videogiochi ha portato a creare sistemi sempre più basati sulla realtà, su grafiche sempre più realistiche, e quindi è stato necessario ovviamente implementare tutti gli studi fatti su ottica o fisica o qualsiasi altra materia che studia lo stato dell'universo, così anche nei modi creati da noi, come in questi videogiochi. E questo è assolutamente innegabile a questo punto. E non so se forse questo inizia già un po' a introdurre il discorso successivo, ma come dicevi tu prima per le schede grafiche di ultima generazione, una cosa che va considerata in questo argomento è il fatto che all'inizio, all'alba dei tempi, come dicevamo prima, a poche persone importava delle schede grafiche. Poi la popolarità dei videogiochi ha portato alla creazione di aziende che si interessassero allo sviluppo di queste cose, e lo sviluppo di queste cose ha poi portato l'evoluzione in altri campi, come quelli dell'intelligenza artificiale. Ah, sì, sì, certo. E dei calcoli. Quindi non si può più dire che il mondo dei videogiochi sia completamente scollegato a questa cosa, perché ha fatto da cavallo di Troia quasi. Ha portato avanti la ricerca in ambiti che all'inizio sembravano non interessare a nessuno, e che probabilmente se non fosse esistita l'industria del videogioco avrebbero impiegato molto più tempo. Se non fosse, cioè, l'industria del videogioco impiegato... è il porno del cinema. Assolutamente. È un'ottima questa frase, è assolutamente vera questa cosa. È il nuovo titolo del podcast. Quindi possiamo solo immaginare che cosa succederà quando i videogiochi porno diventeranno ancora più mainstream di quanto sono lì. A quel punto riusciremo ad andare sulla luna. I videogiochi sono il porno della tecnologia. Non abbiamo titoli più altisonanti, mi spiace Salva, però lo mettiamo nella descrizione dell'episodio. Voglio anche la mia Salladini 2020. Esatto, citazione. Possiamo scriverlo sulla tua tomba, ma... sì, metti che il coronavirus faccia effetto. Sto toccando. No, questo è vero. Cioè, sicuramente il motivo per cui queste schede grafiche hanno questa nuova componente. So per dire una parola sapio. Tensoriale. Questa componente di machine learning è perché appunto un sacco di supercomputer, un sacco di laboratori... Sapio era sensoriale, machine learning no. No, tensoriale. Tensoriale, sapio e machine learning no. Molto di più. Machine learning ormai è solo machine inglese, learning... Salma. Che cazzo ne sai se sapio è solo inglese. Ma i machine learning lo dicono anche alla RAI. No, infatti. Blockchain. Comunque... No, appunto, cioè il motivo per cui hanno questi chip che sono così, tra virgolette, economici, relativamente economici, è perché hanno usato, cioè queste aziende hanno usato le schede grafiche per fare ricerca in campo, cioè in qualsiasi campo, genetica, statistica. Sì, diciamo che, come succede molto spesso, hanno finito per utilizzare qualcosa che era nata per tutt'altro motivo per fare una cosa a sé stante. Le schede grafiche erano nate per la fedeltà nei videogiochi, hanno detto, ah, ma queste qua sono brave a fare i calcoli, allora le possiamo usare anche in quest'ambito qua, che non ci nessuno all'inizio ci pensava troppo quando sono state create. Sì, ecco, un po' come dire, questa cosa è fatta apposta per fare tanti calcoli uguali su un dataset enorme. Cazzo, è esattamente quello che dobbiamo fare noi, perché non lo siamo questi invece? E quindi sì, no, hai assolutamente ragione. Quindi però non è per dire, era giusto per dire che non è ancora così distante, cioè non è fantascientifico dire che i videogiochi hanno in cui hanno influenzato pesantemente la scienza più nel generale, inteso proprio come la ricerca scientifica nel resto dell'ambito. Però. Vero, vero. Però tuttavia comunque influenza. No, è vero, sì. Infatti poi... Scienza in generale, mi sembra un po'... Sì, ok, voglio dire, come se il machine learning fosse una cosa di... Però tecnologia sono molto d'accordo. Bene, perfetto, perché poi sarai tu quello che parlerà della... Cosa? Senti, no, dicevo, sarà il nostro dell'altro ambito, quello non tecnologico della scienza dei videogiochi. E quindi questo era una prima introduzione. Ok, poi diciamo per passare gradualmente alla prossima, volevo dire qualche parola pure su come la scienza sta influenzando a livello anche di design alcuni videogiochi. Assolutamente. Perché tipo, a parte ovviamente design usando la tecnologia di base della macchina, abbiamo un sacco di giochi che adesso si ispirano a fenomeni fisici o a ricerche fatte in campo di computazione o di... Cioè, allora, faccio prima dire gli esempi, se no mi ci taglio. C'è un gioco che si chiama 7 Billion Humans, dove tu devi scrivere dei comandi per un gruppo di persone, come se fossero un processore in pratica. C'era il primo gioco si chiamava tipo Human Resource Machine, dove controllavi un umano, una persona, e funzionava come una CPU, cioè tu gli dicevi i comandi e quello li faceva, tipo vai su di un passo, girati a sinistra, raccogli il pacco, fai questa... Cioè, e alla fine scrivi dei programmi, in pratica. Mm-hmm. 7 Billion Humans è talmente complicato, cioè di base, perché sembra solamente lo stesso gioco, ma con tipo 10 persone invece che l'una. Ma la tecnologia che c'è sotto, la ricerca che devi fare sulla computazione parallela, su risoluzione dei conflitti, su... Cioè, anche... come calcolare la statistica del tempo medio utilizzato per risolvere un puzzle, non è facile, insomma, non è una cosa semplice da, come dire, da fare andandoci a sbattere la testa e basta. Cioè serve un background di ricerca di mm-hmm. matematica, di informatica, cioè di formalismi un po' di sta roba. La stessa cosa va fatta, secondo me, per alcuni giochi sistematici, appunto, tipo SimCity, tipo Factorio, che sono giochi, diciamo, con grossi sistemi di roba, tipo sistemi di idraulica, elettricità, logistica, cose così, che, cioè, non sono pure quelli difficili, cioè, non sono facili da fare. E anche qui, però... Tu dici da modellare virtualmente, cioè da creare il sistema di base su cui si... Esatto, quello è il primo passo, ma anche a livello di design, che volevo un po' avvicinarmi al prossimo discorso, anche a livello di come renderli bilanciati, di come equilibrarli, cioè anche lì servono degli studi di controlli, di... cioè non è facile anche lì. E tra l'altro, poi questo ne parlerò nel prossimo blocco di cose, sono spesso giochi che poi si prestano bene a fare studi anche di biologia, di modelli matematici sulla biologia, eccetera. Ma quello ci arriviamo dopo. Mm-hmm. E qui volevo arrivare, diciamo, alla parte principale, forse, di scienza, tra virgolette, che è quella che riguarda lo studio dei comportamenti, cioè lo studio più psicologico. Che qui abbiamo più cose da dire in generale, perché alla fine sono quelli un po' più studiati, cioè come si comporta un videogiocatore in base a certe, a certi giochi, a certe questioni, come modellare la narrativa, il conflitto, come generare queste cose, cioè come anche tutti quegli studi che alla fine hanno sì inizialmente studiato delle reazioni a degli eventi, ma anche poi hanno generato la risposta nel design di un videogioco, tipo per esempio Left 4 Dead. È vero che magari puoi usarlo per studiare, che ne so, la reazione allo stress, quello che ti pare, ma poi anche a livello base è stato un esperimento di controlliamo lo stato di ansia del giocatore con un'intelligenza artificiale. Quindi sono partiti dallo studio delle reazioni. Scusate, devo partire ancora prima. Left 4 Dead, che cos'è? Left 4 Dead è un gioco di zombie dove però quello che succede nel gioco non è deciso prima. Non c'è una persona da qualche parte che ha deciso ah, a questo punto appare questo zombie che ti salta addosso. No, è tutto dinamico in base a quanto è bravo il giocatore, tipo se il giocatore è molto bravo, se è molto attento, se esplora molto, se sta attento alle risorse, o magari se non riesce a sparare bene perché è un gioco in prima persona, quindi il giocatore deve anche mirare e sparare. In base a tutte queste dinamiche, c'è una specie di regista virtuale, un'intelligenza artificiale in realtà non molto complicata, che decide cosa succede, quanti zombie, quando, dove, come, eccetera. Questa cosa è frutto di uno studio, cioè c'è stato uno studio interno, mentre sviluppavano il gioco, psicologico, di come i giocatori reagivano negativamente o positivamente a certi avvenimenti e perché. Questo poi ha fatto esplodere veramente un campo di studi su questa, come posso dire, su questa specie di interazione in due sensi, no? Cioè il giocatore che influenza non solamente in maniera a breve termine, ma anche a lungo termine, come è fatto il gioco. Quindi ci sono giochi adesso tipo The Division 2 che mi sono scordato di scrivere, tra l'altro, che usano questi studi fatti sull'intelligenza artificiale e sulla psicologia del giocatore per, tipo, che ne so, creare degli eventi dinamici mentre il giocatore va in giro che vengono automaticamente svolti da alcuni personaggi non giocanti, o creare una specie di, come dire, di simulazione, però finta. Non nel senso che non c'è niente di vero, nel senso che avviene solamente intorno al giocatore, in base al giocatore, non so come dirlo. Qua è più che della modifica dell'esperienza di gioco, tu dici una cosa più sistematica, inteso una modifica di come funziona tutto l'apparato al di sotto, è quello che mi stai... Esatto, proprio come funziona al di sotto. Tu che vai in giro per una città e le cose che succedono intorno a te non sono solamente casuali, sono basate su sistemi e sul comportamento del giocatore, che sono risultati di questi esperimenti. Tutte quante queste ricerche che parlano di come, per esempio, nella storia del cappuccetto rosso che incontra il lupo cattivo. Se muore il lupo cattivo prima che Cappuccetto Rosso lo incontra, come fai a garantire un certo livello di... cioè, come fai a garantire che la storia un po' si attenga alla stessa... allo stesso andamento, più o meno? Non so se mi spiego. Però cioè, la disciplina che c'è dietro, qual è? La disciplina che c'è dietro è molteplice, perché ci sono persone che studiano psicologia e interazione o macchina che fanno questo, cioè studiano più, che ne so, la mia coinquilina in Islanda ha studiato come le persone reagivano a Mario Kart, perché su Mario Kart c'è una specie di, anche lì, intelligenza artificiale, non chiamiamola così, però c'è... un sistema che le persone che stanno dietro, scusate se vi rovinerò Mario Kart per sempre, però le persone che stanno ultime in Mario Kart gli escono oggetti più Nintendo potenti, migliori, più barati. Nintendo bastarda. Lo so. Merda. Non c'è meritocrazia, anche... non c'è più niente. O anche il Rimworld. No, sì, però la mia domanda è questa. Cioè, quando la scelta è di regia, perché alla fine il videogioco è anche la scelta dello sviluppatore. Questo non c'entra una sega su quello, con quello che volevo dire. Comunque, ormai mi hai triggerato. No, nel senso, scusa. La scelta di alla fine il videogioco, per quanto possa essere più o meno piacevole o più o meno bello o brutto, riflette semplicemente la scelta del designer, dell'editor, di il cazzo che l'ha progettato, l'ha scritto. Quindi quanto la scelta di quello influisce sul fatto che sia psicologicamente più adattabile o ste menate qua. Alla fine, se lui decide che se il lupo cattivo muore prima la storia finisce, decide lui, cioè non c'è un vero... Il fatto è che la scelta dello sviluppatore potrebbe essere di mantenere la storia anche se è morto. E quindi come risolve questo problema? Cioè... Ok, ma non è più relativa alla scelta... nel senso sua fantasia di se muore allora Capuccetto Rosso diventa lupo cattivo perché mi piace come storia. No, è più un discorso del tipo creiamo un sistema, creiamo qualcosa che abbia basi solide che tutti possono utilizzare per reagire dinamicamente a questo evento. Tu stai dicendo questi studi si concentrano sulla creazione di sistemi che riescano a reagire al giocatore che per impedirgli di distruggere completamente, diciamo, l'idea del gioco che aveva creato il designer, anche se il giocatore poi finisce per fare cose che il designer non aspettava, come per esempio questo, l'esempio, un personaggio esempio, chiave, ok, perché alla fine tu idealmente non vuoi rompere l'immersione, ma non vuoi anche costringere magari lo sceneggiatore che deve scrivere altre 200 pagine per ogni tipo di avvenimento possibile, immaginabile. Quindi per bilanciare un po' la libertà che hai, la presenza e l'immersione che hai con la, come posso dire, con il realismo, no? Con la plausibilità della pezza che ci hai messo sopra, mettiamola così. Ci sono un sacco di studi di informatica, di matematica, di psicologia. Ma io chiedo per un amico che fa il master e magari gli potrebbe interessare. ed è interessante perché tipo appunto in The Division 2 già l'hanno usato, cioè c'è un sistema di si chiama assegnamento di ruolo che è dinamico. Tu hai un evento, tu hai anche una semplice attività che può essere trasportare un materasso da una parte all'altra e hai dei ruoli, degli slot che devi riempire. Questa è una cosa banale, ma è tu dici, cioè, non esistono tipo NPC già prefabbricati per i ruoli, ma il sistema sceglie dinamicamente l'entità di gioco. Che esatto, in base a quelle che ci sono, o ne crea se non ci sono. Ed è molto interessante. Molto interessante. E anche questi sistemi che vengono usati per altre cose, tipo il leggere quello che scrive una persona e farlo capire da un computer, che si chiama NLP, Natural Language. Questa era il sapio. No, nel senso, perché non c'è un esempio, cioè ti è venuto in mente così, okay. Non perché prima volevi tradurre quello che ho scritto io. No, non dico la scrittura, scusa, tutto sarebbe impossibile, cioè manco una persona. Sarebbe l'interpretazione del linguaggio, infatti. Esatto, l'interpretazione del linguaggio. Sta per Natural Language Processing. Esatto, cioè linguaggio naturale, cioè parlato dalle persone, che è pieno di cose ambigue e di contesto e di cazzate, farlo capire a una macchina è complicato, però ci sono già dei programmi che ci provano e sono integrabili in videogiochi. Io conosco, cioè ho incontrato una tizia che ha fatto un gioco dove tu c'hai questo blob in un laboratorio, c'è questa specie di gelatina senziente, che però non parla, cioè non ti risponde, puoi solo dirgli cose. Lo scopo del gioco è tu gli scrivi qualcosa in qualsiasi lingua, c'è anche una lingua inventata, anche in Klingon. Ci hanno anche provato, tra l'altro, a scrivergli in Klingon, ne ha capito. Tu gli scrivi, che ne so, trasforma il beaker in una fiala, oppure trasforma il liquido in quella fiala da rosa a arancione, e piano piano, cioè, vedi che la blob fa dei tentativi, tipo vedi che prova, magari prima cambia la forma della fiala, poi cambia il colore, piano piano capisce ogni parola cosa vuol dire, e se ci giochi abbastanza, alla fine, cioè, riesci a capire cose abbastanza complicate, cioè comandi abbastanza... Un bambino. Un bambino però veloce, cioè... un bambino veloce di comprendonio, esatto. Mm-hmm. E poi vi linkerò nella descrizione il gioco, che si può scaricare gratis. È molto interessante vedere, cioè ci mette un casino di tempo dopo un po' a fare i calcoli, però è un sacco interessante. E niente, questo è più o meno la mia, come posso dire, la mia idea di come i videogiochi hanno influenzato sia la parte tecnica che la parte di design e di sviluppo dei sistemi e dei giochi stessi. Tu dici in questi ultimi anni, questi studi, queste scoperte in vari ambiti della scienza, solo della tecnologia, come dicevamo prima, schede grafiche e processing di immagini, cose del genere, ma anche di psicologia e magari comprensione del linguaggio, hanno creato un nuovo modo di interazione tra l'essere umano, esatto, e sì, questi sistemi virtuali. Ci sta, assolutamente. Io avrei voluto accennare anche che questa cosa, ovviamente, non ci sono solo cose, un po' per tutto nella scienza, non ci sono solo cose positive di questa cosa qua. Madonna, sempre a fare il negativo. So. La scienza è uno strumento, non è... Assolutamente, no, su quello sono d'accordissimo. Lo però, dico anche dire, qua per un amico, perché è l'esercito d'ammonia. Certamente, ma così come l'atomo ci ha dato sia le centrali nucleari che le bombe atomiche, gli studi di psicologia ci hanno dato i sistemi che reagiscono, come quelli di Left 4 Dead e The Division, ma ci hanno anche portato a creare un po' quella mentalità da free to play e pay to win, che si è sviluppata molto negli ultimi anni, con appunto vedendo che, facendo studi e ricerche principalmente dalle grandi aziende produttrici di questi tipi di videogiochi, e vedendo che questo format, questo modello di business funzionava, ci sono stati studi che hanno lavorato per scoprire quale fosse il modello migliore, più efficace, più assuefacente di questo modello, di questo tipo di gioco. E si sente parlare in giro di, appunto, di ricerche, casi, studi di aziende che cercano di capire quali siano tipo i valori migliori da usare per il dare premi con le loot box, oppure quale sia l'intervallo di tempo perfetto tra un reward all'interno di un videogioco e l'altro per rendere il videogioco estremamente assuefacente. E anche qui, non sono un estremo esperto in questo campo, però è una cosa che, dopo aver sentito un po', ti fa riflettere, almeno un po'. Sì, cioè... Si basa un po' sugli stessi studi, ma li usano per fare cose un po' meschine. Come diceva il nostro dottor Salma, per fare soldi. No, un conto è dire fare soldi, un conto è dire rendere persone dipendenti al gioco d'azzardo. Però oggettivamente non è, cioè, il gioco d'azzardo è nato molto prima, non è che adesso perché... No, ok, no, assolutamente, certo. Ma non stiamo dicendo che hanno inventato il gioco d'azzardo. Tra l'altro, se lo Stato italiano che finanzia il gioco cioè che tassa e prende soldi, volesse sponsorizzarci, noi... Ah, sì, siamo disponibili, certo. Non è un buon momento per investire nel Stato italiano. Andiamo a registrare a Las Vegas. O quell'altro posto che è qua vicino, come si chiama? San Marino? Non mi ricordo. Vabbè, non è importante. Non è un podcast di politica questa sala. No, dicevo, era giusto per far notare che non può ignorare anche questa faccia della medaglia, perché sì, la ricerca sta creando cose sempre più innovative, più interessanti da provare nel tuo tempo libero, ma bisogna anche fare attenzione quando queste cose vengono utilizzate per scopi per scopi non proprio, diciamo, altruistici, ma per puro fine monetario. E quindi ci sono anche storie di persone che ci hanno perso i risparmi o anche la vita dietro queste specie di truffe, se così si possono definire. No, vabbè, cioè, non sono probabilmente truffe. Però, cioè, se parli di modellare il comportamento di un giocatore, di trovare una specie di ritmo nella distribuzione di premi, nel premiare più chi spende che non quelli che si impegnano a giocare, cioè, non lo so. Al di là del discorso etico di queste cose che poi a Salla gli viene il cancro, secondo me è cattivo game design proprio. Beh, noi comunque abbiamo molti esempi nel nostro gruppo di amici di persone che preferiscono giochi di questo tipo, ovvero in cui tu puoi pagare per avere... Assolutamente, ma di nuovo non è una cosa per dire, così come dicevamo prima, cioè non è tutto sbagliato, tutto giusto. Anche il gioco d'azzardo, ogni tanto ci si diverte col gioco d'azzardo. Io mi diverto ogni tanto a giocare a poker e giochi del genere. Solo bisogna dire che ci sono anche ditte che sono state criticate parecchio negli ultimi anni perché hanno sfruttato al massimo questo sistema e hanno utilizzato queste scoperte, queste ricerche, questi studi a livelli tali da sembrare... Cioè, ad andare oltre, diciamo, alla soglia etica della cosa. Diventa poker, praticamente. Assolutamente. Quindi bisogna parlare sia delle cose positive sia delle cose negative, altrimenti si rischia poi di avere un bias, no? Visto che siamo tutti istruiti in questo podcast. Giusto, dottor? Silenzio. sei l'unico che possiamo ufficialmente chiamare dottor. Per cui, dopo aver portato un altro po' di depressione a podcast, no, era giusto per dire che una cosa mi è rimasta molto impressa questa cosa, anche su... No, ma è giusto, anche perché alla fine, cioè, è generare profitto che l'azienda fa, non gliene frega, cioè, non è che lo ovviamente, fa cioè... l'innovazione, quindi alla fine se c'è un sistema per standardizzare o per ottimizzare il fatto che il cliente gli dia più soldi, perché non... investirci. Assolutamente. Infatti anche di questo che bisognerebbe parlare, cioè dicevamo prima che come i videogiochi abbiano questo potere di influenzare il giocatore, di modificare i suoi comportamenti. Ed è vero, sì, è sempre divertente quando lo si fa per migliorare il gameplay, per ottenere una storia più interessante, eccetera, eccetera. Però è vero che da una parte la violenza dei videogiochi c'entra fino a un certo punto con tutti i problemi del mondo e cose così, però non bisogna ignorare il potere di influenza che hanno i videogiochi, perché una cosa così estesa, che ha così tanto, come si dice, tanto reach, tanta capacità di piacere alla gente e di far appassionare la gente, deve essere, bisogna prenderla anche in considerazione come... qualcosa in grado di modificare i comportamenti e soprattutto la mentalità delle persone. Ed è un aspetto che ogni tanto viene un po' ignorato, cosa che non andrebbe sempre fatta, almeno secondo il mio modesto punto di vista. Quindi stai dicendo che la letteratura può influenzare la società? so che è un pensiero rivoluzionario. Allora, in realtà l'idea della letteratura che influenza la società è una roba che diceva già Platone nel suo concetto di mimesi. Pam! Secondo me a Roberto sono scoppiate le orecchie in questo momento. Non era esattamente mimesi, ma era più un concetto tipo che viene detto metessi, non so, imitazione forse. Mm-hmm. Ai memi ci arriviamo dopo, tranquillo. No, non c'entra niente con i memi, però sì. l'idea è che la letteratura influenza la società, e tra l'altro questa idea si è evoluta più volte, e quindi io avevo preso una citazione di Wolfenstein e Littes del 1950, che dice che in realtà l'influenza della società deriva da diverse fonti, tra cui la società stessa e anche la letteratura, ma anche il cinema e adesso anche i videogiochi. No, è questo il punto, che appunto dicevamo, il punto di questa mia frase era più che sappiamo che la letteratura influenza la gente, e sappiamo ormai che anche il cinema influenza la gente. Non so quanto ci siamo ancora resi conti che i videogiochi effettivamente influenzano la gente. Sì, diciamo che i videogiochi in questo periodo storico hanno una nicchia molto più ristretta, perché la maggiore influenza deriva dai social network, e quindi... Esatto. Però non sono nemmeno completamente da ignorare, soprattutto se pensiamo che una grande fetta del pubblico dei videogiochi sono le persone più influenzabili, che poi andranno a influire anche sul futuro di tutti, che sono i bambini, i ragazzi adolescenti, che sono quelli più, diciamo, uno dei target maggiori dell'industria, per cui... Sì, ho visto anche adulti abbastanza ritardati da poter... No, tu quello non... Su quello non metto mai la mano, non metto assolutamente in dubbio che ci siano esempi validi. Ma quindi, era giusto per dire che mi aveva affascinato anche questo aspetto dei videogiochi, questa ricerca su come influenzare il pubblico. Mi ricordo di aver visto anche una presentazione di come c'erano state varie ditte che, tipo, quando dovevano far uscire la versione successiva di un gioco, dividevano il mercato in vari, come dire, creavano vari sottomercati di test. Per esempio, non mi ricordo bene dove l'ho visto, ma ho ben presente lì un'azienda di produttori di giochi anche per ragazzini, per bambini di tablet e telefoni, che aveva rilasciato tipo in un mercato una versione del gioco con il bottone del menu principale in verde, con un'altra in rosso, e aveva notato che quelli con i bottoni in verde tipo avevano un 25% in più di conversione del gioco rispetto a quell'altro. Cioè, il gioco veniva tipo... No, era per dire, un numero per dire. Però avevano un'influenza molto maggiore rispetto a quell'altra per far comprare tipo qualcosa dalla pagina iniziale rispetto a quell'altra versione. E questa cosa mi ha sempre molto colpito. Su come riescano a creare questa influenza nei giocatori. Sada, dici che è tutta una stronzata, vai. Quindi, questa è la fine della prima parte, o lasciamo la parola al nostro... Direi che questo, cioè, per me ho poco altro da dire, se non qualche esempio di giochi che usano ray tracing e cose così. Direi che possiamo passare al secondo blocco, cioè come invece i videogiochi hanno influenzato la scienza. Io non ho molto da dire, ho solamente due esempi, che in realtà sono uno. No, cioè, il modo in cui i videogiochi hanno influenzato la scienza, l'unico che mi viene in mente è la gamification della scienza, cioè sarebbe la... un po' la rendere la scienza a volte un gioco, mettiamola così, non nel senso di giochi tipo educativi alla, non lo so, alla Magic English o che cazzo ne so. Se siamo vecchi, mamma mia, non mi voglio mettere niente, infatti c'è una videocassetta quella, non è un gioco, vabbè, comunque. No, più tipo, un po' di tempo fa c'è stata una game jam, che sarebbe una specie di gara, tra virgolette, di alcuni sviluppatori che si mettono insieme per tipo un'ora o due giorni o una settimana, insomma un tempo limitato, per fare un gioco piccolino, semplice, su un tema comune. E una di queste ultime game jam era su un gioco che aiutasse la ricerca su, non mi ricordo cosa, se era sull'AIDS o su un'altra malattia, non lo so. come creare un gioco che aiutasse fisicamente, direttamente la ricerca, non più persone adesso conosceranno questa malattia perché conoscere la malattia è metà della battaglia. No, proprio tu aiuti proprio le persone che fanno ricerca su quella malattia. Mm-hmm. E avevano fatto un gioco dove tu comandavi questa navicella e dovevi posizionarla, dovevi evitare degli ostacoli e metterla in alcuni modi che appunto posizionando gli ostacoli secondo dei dati grezzi di un'analisi di questo, non so, sangue che era, mm-hmm. la posizione della navicella era una specie di interpretazione di primo rifinimento di quei dati che poi aiutava gli scienziati che andavano a leggere l'output del gioco, diciamo. È come se fosse una specie di filtro dove hai in ingresso merda, roba, diciamo, tutta incasinata, e in uscita hai un po' meno merda, che quindi proprio rendevi più facile il lavoro giocando. Rendevi più facile il lavoro degli scienziati giocando a questo gioco. Oppure, che ne so, altri giochi dove riconoscevi dei tessuti malati e li evidenziavi, aiutando tantissima gente, anche laureanda, a fare intelligenze artificiali che le riconoscessero. Insomma, no, roba così. Schifo, cioè io l'avrei fatto tutta la vita invece che fare l'esame di istologia, sta roba qua. Beh, nel tuo campo ci potrebbe essere di più il gioco che si basa su com'è che si chiama, sul piegare le proteine. Esiste non era un gioco, c'era una volta un programma di questo tipo, che era un programma che tu potevi avviare nel tuo computer e semplicemente sacrificava parte della potenza di calcolo del tuo computer per ricercatori che stavano lavorando su questa cosa qua. Esisteva un programma mentre andavo al liceo, quindi in realtà un bel po' di tempo fa, perché il problema del ripiegamento proteico era uno di quei problemi, tipo di quelli, non so, quelli come cazzo si chiamano, quelli che dicevano NP completi, no, non proprio, erano quei problemi, insomma, che, perché NP mi sa che sono quelli proprio impossibili, che cavolo era, quelli che non si possono risolvere in tempo, esatto, così è una cagata, sì, in un tempo fattibile. Polinomico. No, invece, secondo me, questo qui era, cioè, da quello che mi ricordo, era classificato come uno di quei problemi che avrebbero dato un contributo enorme alla ricerca scientifica. Ok. Cioè, è molto difficile da risolvere e che allo stesso tempo avrebbero contribuito tantissimo. Molto che richiedevano anche un grande, secondo l'idea che c'era all'epoca, un grande contributo di risorse, sì, esatto. Okay. In realtà è una minchiata, però vabbè, insomma, c'era questa idea qui, ma non voglio parlare di questo anche perché non è esattamente okay. Il nostro podcast. Anche se io in realtà avevo trovato quello che sembrava un riferivo, cioè un gioco che non proprio un gioco, ma tipo dei puzzle che dovessero, che risolvendoli potevi aiutare con alla ricerca sulla piega delle proteine. Oppure anche no, l'ho trovato oggi, ho messo il link nella pagina, è il primo dopo ci dovresti dare un'occhiata. Oppure, quanto pare, anche uno, anche qua non ho guardato benissimo, ma che sembrerebbe stia cercando di mappare i collegamenti neurali del cervello umano tramite un gioco, praticamente. Quindi sì, diciamo che c'è tutto questo ambito che scambia l'intrattenimento con l'intrattenimento del giocatore delle informazioni, sì, diciamo che questo sistema che loro ti danno un po' di intrattenimento, dai dei... tutto qui. E questo è carina come idea, solo che secondo me... Stai un po' saltellando, Marco. Stai saltando, Marco. Mi sentite? Sì. Ok, meglio. Dicevo, c'è tutta questa branca, questo ambito dei videogiochi in cui ci sono gli sviluppatori che praticamente in cambio all'intrattenimento che danno al giocatore, chiedono in cambio del suo tempo per ottenere informazioni in più sulla ricerca che stanno facendo. Ed è una cosa, secondo me, molto interessante, ma che non è mai stata sviluppata veramente bene. È carino quel sito lì, Foldit. Esatto. Non so quanta utilità possa avere. Ma... Sì, no, vedi, è questo il punto. Cioè, l'idea di base ci sta molto, perché essendo i videogiochi una cosa interattiva in cui puoi ottenere informazioni dal giocatore, se tu riuscissi a creare un sistema che effettivamente è divertente, è interessante da utilizzare ed in cambio riuscissi a ottenere dati per la tua ricerca, sarebbe una cosa molto interessante. Però il punto è che è ancora più divertente giocare a Fortnite che fare il gioco sul piegare le proteine. Sì, ecco, vabbè, giocate a Fortnite perché non credo che questo aiuterà molto la ricerca sul Fortnite. Esatto. Anche perché onestamente è già fatta. Comunque, il punto, in realtà io volevo vi ho costretti a fare questo episodio, vi ho proposto di fare questo episodio perché qualche mese fa, non mi ricordo quando, sono andato a una sorta di, una presentazione che le aziende fanno per... Una conferenza, tipo? No, è più una roba che le aziende fanno per vendere i loro prodotti e organizzano delle giornate in cui ti presentano i loro prodotti, te li fanno usare, queste robe qua, tipo, ma molto in piccolo. Un expo? Sì, però un expo in piccolino, sì. Okay. E, era comunque un'esposizione di roba, loro dicono congresso perché mettono tre presentazioni in croce, però in realtà è più quello, e praticamente è è un'azienda che produce macchine che servono, cioè strumenti che servono a fare il mio lavoro e di adesso. Che non andiamo a definire perché sennò... No, vabbè, servono per fare robe sulla termodinamica dei sistemi biologici. Oddio! E c'era questo qua che presentava il software e diceva: guardate, il software della nostra macchina è molto semplice, ma vi spiego perché. Perché il programmatore che l'ha sviluppato, cioè il nostro nuovo programmatore, è un tizio che lavorava per Ubisoft. E quindi ha approfittato del fatto di essere abituato a lavorare su videogiochi e applicandoli a come rendere il software più facilmente interpretabile o più facilmente utilizzabile da un neo utilizzatore. E in effetti se ho guardato quel programma, in effetti è molto più semplificato, è molto più, non so, immediato di un normale, certo, software utilizzato da uno strumento utilizzato nella ricerca. E in effetti ha senso, perché questa azienda, che è la Nanotemper, facciamo pubblicità, se vuole finanziarci, lo fanculo, domanda per andare a lavorare da loro. No, non lo so, non è vero. In effetti deve punta a essere utilizzata per un sacco di industrie farmaceutiche in cui magari uno è un tecnico, ne ha assunto e può avere senso avere il software più semplice possibile. Poi assolutamente. Che questa cosa sia migliore o peggiore non lo so, perché alla fine semplice vuole anche dire che è semplice per esattezza, e quindi non ha, cioè perde un sacco di altre cose, di altre funzioni, di altre... Però è molto bello, come era molto bella come cosa, perché appunto, cioè tu appena lo vedi poi sai già come utilizzarlo. Stavo pensando, ma scusami, visto che questo qui è praticamente un'applicazione molto stupida e molto banale di come saper fare videogiochi può essere utile per la scienza. E allo stesso modo mi sono chiesto, ma si può, posso andare a vedere quali sono alcuni esempi di come la scienza aiuta, cioè come i videogiochi hanno aiutato la scienza, che contributi hanno dato alla scienza, e per quello vi ho rotto le balle. Di fatto, molto bene. Di fatto ci hai risparmiato di scrivere un episodio questa settimana, quindi prego. In realtà poi non ho fatto una sega, però vabbè. Sei detto che sembra 100 pagine. Sembra già un membro perfetto di questa casa produttrice di podcast. Ma sta mentendo, cazzo. No, non ho fatto niente davvero, solo... Vabbè, comunque sì. Allora, intanto proverò ad essere il più... specifico possibile, cioè a riferirmi a tutti gli articoli o tutte le cose, magari provo anche a mandarveli o scriverli da qualche parte, non garantisco niente perché sono una persona molto pigra. se avete domande, eccetera, scrivete pure a loro, così vi risponderanno senza darmi fastidio. Assolutamente. No, allora, intanto partiamo dalle cose brutte. Ovvero, quando uno ci dice i videogiochi, salute, videogiochi, contributo a videogiochi, scienze, eccetera, e diciamo che l'opinione pubblica va subito a vedere che cosa i videogiochi hanno portato in malattie e disturbi psicologici. Non so perché la persona ragiona in questo modo. Cioè, la prima cosa che vanno a vedere è di solito, ah, ma quindi questo fa male? E in che modo fa male? Ah, vedi, questa malattia ce l'hanno tutti. Noi tre siamo dei cattivi esempi, però, di questo, per questo, però, in questo caso. Diciamo che la società funziona così. E allora sono andato a vedermi un po' di articoli, di cose varie, e come potete immaginare è pieno di esempi e di cose più o meno scientifiche che riferiscono a, non so, persone violente giocano a videogiochi violenti, oppure giocare a videogiochi violenti fa diventare persone violente, oppure anche giocare a videogiochi provoca ossuefazione, e di fatto quello che ha detto Marco prima potrebbe essere anche, vabbè, una risposta a questa domanda, oppure aumentano l'ansia, oppure alcuni mettono anche deficit di attenzione. E ci sono un paio di lavori che provano a raccogliere tutti questi tutte queste teorie. E allora c'è un articolo di un certo Craig Anderson che si basa su, che magari provo a mettere da qualche parte, che appunto conferma che persone violente non sono attratte da videogiochi violenti. Niente, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Interessante. Ma da Animal Crossing? No. Nel senso, le persone violente sono attratte dai videogiochi come le altre, come persone non violente, ma non è che hanno una preferenza a videogiochi violenti. E niente, c'è appunto la dimostrazione di sta roba qua su uno studio di non mi ricordo quanti pazienti, quante persone, oppure no, forse è una statistica su addirittura sugli stati mondiali, che tra l'altro dimostrano che l'attrazione a videogiochi violenti è indipendente dal tipo di nazionalità, quindi che tu sia europeo, che tu sia asiatico, che tu sia americano, e puoi essere o non essere attratto a videogiochi violenti. In quel caso non sei una persona violenta, ma sei attratto comunque a questi tipi di violenza particolari. Niente, sembra un fun fact, lo è, basta. E poi ho trovato altre pubblicazioni che invece parlano di un disordine che si chiama Internet Gaming Disorder, che dal 2020 mi sa che mi pare sia entrato nei tipi di malattie, diciamo, mentali, o comunque di malattie che vengono considerate malattie, che raccoglie insieme anche il videogioco. Quindi ora il videogioco è ufficialmente inserito alla stregua dei social network e di guardare troppo YouTube e di guardare troppo episodi in streaming. Sì, ci sta. Tra le malattie, quindi niente, vabbè, questo era per dire che alla fine ci sono un sacco di... Se l'hai chiamata dipendenza, si può paragonare anche... Esatto. Droga! Non è solo dipendenza, cioè non è esattamente dipendenza, è un disordine, quindi... Ah, ok. Può essere dipendenza, però... È più simile... Ha un disordine mentale tipo ossessivo compulsivo dell'attenzione. Sì, cioè ogni... Poi ci saranno, non lo so, immagino ci saranno diverse... Perché anche l'ansia derivante dal videogame è classificata in quel tipo di disordine. Mm-hmm. O anche deficit di attenzione dovuti a alcuni tipi di, appunto, di consumo di social network o di videogiochi, eccetera, è in questo disordine. E quello che voglio dire con tutta sta menata, che in realtà non c'entra una sega con... cioè che, insomma, sembra una cosa brutta e basta, è che alla fine non è niente di eccezionale, cioè ci sono un sacco di altre cose buone o cattive, il giudizio etico è dato solo dalla società, che danno questo tipo di problemi. Per cui, per esempio, leggere libri potrebbe essere la stessa cosa, adesso magari va meno di moda, però guardare film al cinema, guardare serie TV, social network, hanno tutti questo lato, cioè possono degenerare tutti in disordini particolari. Quindi tutta sta menata è per dire che sì, noi ne prendiamo atto che esiste questa cosa, ma non ce ne frega una sega. come dire, chi mangia troppa carne rossa ha il cancro, cioè la stessa cosa. E, ora, in realtà io volevo parlare di più di che cosa è invece l'impatto della scienza dei videogiochi in varie discipline della scienza, scientifiche. Allora, intanto tutte questi studi sui disordini vanno comunque a dare un impatto nella scienza e nella ricerca in questo fronte. E, però, se posso dire, da quello che ho visto un po' in giro in questi, ci ho guardato in realtà 2 settimane fa, gli esempi di applicazioni di videogiochi e di che cosa videogiochi e di contributi che i videogiochi danno in modo positivo alla scienza, e quindi non associati a patologie, eccetera, o meglio, non causano patologie, eccetera, sono superiori a tutte le altre minchiate che leggi nei giornali su il videogioco fa male, eccetera, eccetera. E basta, ci tenevo a dire sta minchiata qua. Allora, io, come dicevo prima, non sono un videogiocatore, però ho raccolto un po' di generi di videogiochi e che possono dare anche una connotazione positiva, giusto per bilanciare tutto quello che ho detto prima di negativo, che poi non era tanta roba, però insomma. E tutto questo è supportato da articoli e da robe varie, quindi è molto interessante anche il fatto che ci sono ricercatori che ora lavorano in questo settore. Già questo è un contributo a sé, nel senso che è qualcosa in più che, su cui il ricercatore può lavorare per dare un contributo a quello che è lo scibile umano. Roberto. Allora, queste cose sono un po' banali, però insomma... E magari faccio un breve recap, tanto poi io parlo a vanvera, che sono contento perché il podcast non è mio, posso dire qualsiasi cosa. per esempio gli action games e quindi i giochi d'azione in generale vengono associati a una maggiore attività diciamo di coordinazione occhio-mano e anche a una maggior un allenamento a quello che è l'attenzione, quindi è il contrario di quello che c'era prima, ovvero il deficit d'attenzione che viene dato, che viene anche associato a un sacco di abusi di social network, eccetera. E questo era abbastanza scontato, non so. Una cosa meno scontata è invece che ci sono un sacco di giochi, di videogiochi, che fanno parte di simulazioni storiche, e cioè che vengono classificate tra simulazioni storiche e anche simulazioni di conflitti, eccetera, e può sembrare una minchiata, ma in effetti ci sono un sacco di studi che provano che tutto questo aumenta quello che è non l'empatia del videogiocatore, ma insomma una sorta di visione d'insieme di quello che è il mondo, eccetera, cioè quindi anche un videogioco stupido come Assassin's Creed potrebbe dare un contributo comunque a quello che è l'idea, qualche nozione storica in più del videogiocatore. Oppure, prospettiva. Esatto, prospettiva, grazie. Prospettiva. Oppure un videogioco che può essere Call of Duty, anche quello che ti parla di Medio Oriente, o non so in realtà dove è ambientato. Sto sparando cazzate, però i Call of Duty che ho giocato io quando ero piccolo, cioè i Call of Duty 2 sulla Seconda Guerra Mondiale, comunque è ricco di citazioni e di eventi che sono accaduti davvero in passato, e quindi ti danno qualche elemento in più su una visione contesto. Storica più completa. Mm-hmm. Sì, esatto, una visione storica. Insomma, quello che stai dicendo è che la letteratura pubblico No, dicevo, quello che stai dicendo è che la letteratura influenza il pubblico, è quello che stai cercando di dire, Marco? Sì, non mi si sente così male? We live in a society? Ogni tanto salti. No, in realtà quello che sto cercando di dire è che ovviamente il videogioco non si può sostituire a quello che è la scuola. Ovvio. Però se una persona più avanti con l'età, che di solito non è una persona più vecchia, come posso essere io in realtà, non è associata a eventi di... cioè non è previsto che una persona di che abbia finito le scuole quelle obbligatorie sia ancora in un processo di apprendimento di questo tipo, cioè su materie che possono essere geografia o storia, può comunque continuare a apprenderle utilizzando questi strumenti, perché alla fine fa parte qualcosa che non viene percepito come scuola, ma viene percepito come hobby, e quindi una persona magari lo fa nel suo tempo libero e ne approfitta per apprendere nozioni che, non è vero, non sono nozioni che potrebbe apprendere studiandosi un libro di storia, ma parliamoci chiaro, è un hobby e quindi rimane tale. Però, per esempio, io conosco persone a cui piace leggere libri di storia, e questo è un tipo di letteratura anche questo, e quindi quello che voglio dire è che alla fine non è, cioè nel senso, uno per quanto possa leggere un libro un thriller del cazzo o un libro di storia, allo stesso modo può giocare a Fortnite o può giocare a Rome Total War e apprendere cose che normalmente non potrebbe apprendere, basta, non c'entra un cazzo. Ci sono dei giochi... Sì, no, volevo fare un piccolo commento. Alla fine, se tipo studi storia in Europa e tipo in Italia, non è che ti fermi tanto a parlare di pirati o di Giappone feudale, cioè... Esattamente. No? Quindi magari, che ne so, uno Shogun Total War, un Assassin's Creed 3, così magari ti introduce meglio. Diciamo che quelli che utilizzano la storia come azione sono comunque elementi di divulgazione, un po' come... quello che succede quando si guardano serie TV ambientate esattamente. E facendo parte di quello che non è il percorso formativo della persona, è comunque un qualcosa in più che dà un contributo, ma in realtà il fatto che ci siano studi che mi provano questa cosa qua, è, secondo me, è anche un aumento, cioè un conferma. Sì, no, ma è anche un qualcosa in più, insomma, un ramo della ricerca che non era fino adesso stata presa in considerazione. Cioè, quando dicevo stamattina scherzando a Jacopo, cercami qualcosa sulla letteratura di massa e l'effetto sulla società, era riferito al fatto che, secondo me, quando la letteratura è diventata una cosa di massa, non c'è stato un'occasione di studiare come questo ha dato un contributo alla società, cioè in quanti modi questo ha cambiato la società. Mentre adesso, col fatto che comunque la ricerca scientifica è una roba che esiste e grazie a Dio viene finanziata, c'è anche la possibilità di andare a guardare tutte queste cose, come appunto i videogiochi, e guardare come queste cose danno un contributo a, appunto, la società, appunto gli Exer Games, come possono essere utilizzati per aumentare cioè per evitare la sedentarietà, hai capito? È una cazzata. No, certo. No. Però giocare a Dance Dance Revolution può avere un'influenza su quello che è una vita sedentaria o com'è lo stile di vita della persona, e ci sono pubblicazioni scientifiche, quindi ci sono studi documentati in cui prendono appunto esami, dati, casi di studio di persone che giocano, non giocano, con i vari controlli eccetera, ed è una roba molto interessante che non era stata fatta fino a adesso semplicemente per un motivo storico, e non è stata fatta sulla letteratura appunto o sulla TV in generale. E basta, c'ho alcuni altri esempi per cui, per esempio, quei videogiochi vengono chiamati related text, cioè videogiochi tipo giochi di ruolo, come può essere World of Warcraft o che cazzo ne so, Skyrim. Related text. Sì, cioè che hanno un sacco di trama e... Raccontato tramite... cioè scritta nel gioco, praticamente, esatto. Sono i libri da leggere. Ah, sì, ok. Dialoghi, sì, che hanno un sacco di lore e di cose, aumentano anche quello che sono altri fattori di approccio alla conoscenza, per cui per esempio uno studentello di merda che gioca questi giochi e legge i libri relativi a questi giochi ha comunque opportunità in più di insomma, intanto leggere, ma anche di conoscere di più, diciamo, è complicato parlare perché tu dici magari un appassionato, appunti sono in inglese. Infatti ho notato, tu dici un appassionato che si legge un libro di Halo che esattamente che è ambientato nell'universo di Halo, sì, ha più abilità di storytelling di una persona che, non so, per esempio guarda solo le partite di calcio, per dire, per fare un esempio stupido. Non è che voglio dire che chi guarda partite di calcio è un coglione. No, però lo vuoi dire. No, non lo voglio dire, perché la mia teoria, come le persone con cui parlo sanno bene, con cui parlo di solito sanno bene, è che è più nerd uno sportivo di un videogiocatore. Oddio! Eh sì, perché alla fine sapere le statistiche del 99 di che cazzo... Vabbè, comunque... Videogiochi scienza, torniamo sul... Per finire questo lungo elenco, poi ci sono altre cose che magari metto, vi scrivo, non so. Per esempio, ma continua, tanto... Ma sì, tanto che non abbiamo limiti, tranquillo. Puzzle 3D no. Aumenta quello che è il problem solving del videogiocatore. Mm-hmm. E, insomma, tutto questo per dire che se la scienza dà dei... può essere associata a problemi e malattie mentali, può anche essere associata a diciamo cose positive e nuove abilità, sviluppo di abilità o di o training, addestramento di persone. Non so se hai detto questa cosa, forse ci stai arrivando al VR. No, non l'ho ancora detto. E magari se vuoi parlarne adesso, però un attimo, volevo un attimo finire tutta sta... perché tutta sta minchiata ha un senso. E, ovvero che la cosa interessante è come vengono studiate queste cose. E, andando a vedere quali sono gli esempi andando a vedere come il videogioco ha cambiato la società o in che modo ha aumentato le possibilità di intrattenimento ma anche di apprendimento del videogiocatore, è una roba abbastanza complicata e viene fatta in un modo un po' strano, che è andando a vedere come il cervello reagisce mentre la persona fa videogiochi, e allo stesso modo andando a vedere quali possono essere i suoi risultati nel fare test, eccetera. Per cui, cosa stupida, fai giocare una persona a un 3D puzzle game, non lo fai giocare, poi gli fai fare un vero puzzle, lo poni davanti a un problema, se no, eccetera. E il fatto che tutto questo sia diventato possa essere standardizzato è una roba abbastanza figa, magari solo per me nerd, perché non è così semplice da tradurre, cioè non è così semplice poter dare un dato scientifico, sì, sì, no. Su il videogioco ti aiuta a fare questo o no. C'è un fonte di problemi, esatto, di controllo, di... E comunque serve, perché ogni persona a suo modo è unica e non è così semplice farlo. Quindi si può fare in termini di statistica, ma allo stesso modo viene fatto in diversi modi. E quindi non voglio annoiarvi con questa roba, però quello che volevo dire è che c'era nel 2018 è partito un intero programma finanziato dallo Stato americano e nell'esercito americano, insomma l'esercito americano, i fondi dati all'esercito americano hanno finanziato questo studio su come rendere i videogiochi e come capire se una persona che gioca bene ai videogiochi può essere un buon soldato. Ed è una cosa abbastanza curiosa. Grazie America. E basta, niente, e basta. È molto interessante, perché comunque sono cose che io non faccio di solito e sono molto carine. Dimmi, Jacopo, scusami. No, però, ti volevo chiedere, sai qualcosa, qualche dettaglio su come cercano di limitare un po' le imprecisioni, le possibili variabili come si chiamano, cioè, perché alla fine il problema, come dicevi, è che ogni persona è unica, quindi come fai a mettere in relazione, a standardizzare, a limitare possibili elementi? Cioè, come fai a controllare, tra virgolette, le persone? Gli approcci sono, da quello che ho visto, gli approcci sono soprattutto due. Allora, c'è l'approccio della statistica in generale, per cui tu prendi un campione di persone e vedi, gli chiedi, fai videogiochi di che tipo? Sì, no, bla bla bla, e che voti hai a scuola, per dire. E questo è l'approccio statistico, cioè prendi un sacco di dati e fai e vedi se è possibile correlarli. Esatto, correlarli a cose. L'approccio più scientifico in senso stretto invece prevede di avere due campioni, quindi prendere, insomma, è poi l'approccio che viene usato alla con la medicina, cioè prendi una sorta di persone placebo e una sorta di campione non placebo, di giocare o no ai videogiochi e vedi i risultati. E l'approccio più interessante è quello che invece fa uso di come si dice in italiano? Di immagini neurali, non so come dire, di... vabbè. Ah, sì, ho capito! Analisi del cervello. Che invece, esatto, invece prevede di guardare in tempo reale il cervello di una persona che gioca e di una persona, della stessa persona quando non gioca, quindi il campione è uno solo, e vedi sì e no, e in questo modo, e vabbè, ovviamente è più di uno, però il controllo è lo stesso campione mentre non gioca, e quindi hai, insomma, la risposta sì e no più attendibile possibile. E in quel modo puoi vedere quali parti del cervello vengono attivate o no, o quali parti del cervello vengono impiegate stimolate. Di più in alcuni tipi, stimolati, esatto, di più in alcuni tipi di giochi o in altri tipi di giochi. E vabbè, parliamo un po' del VR, così Jacopo è contento, poi dopo torno su questo argomento perché volevo dire un'altra roba. Ma no, voglio buttarlo lì come esempio di, cioè, uno strumento di videogiochi usato per... Sì, il VR è una delle robe più interessanti al momento, anche da un punto di vista di ricerca scientifica, perché in effetti... Di figaggine. Sì, perché in effetti è veramente innovativo, sia perché a un punto di vista del tutto nuovo, cioè molto diverso dalla televisione, cioè dal monitor e dall'input delle mani, ma è un input più appunto reale. E quindi può essere sia impiegato per, come mi diceva prima Marco, per addestrare o per, insomma, per insegnare alcune procedure. Marco mi diceva prima dei medici, come esempio. Esatto. E in realtà io appunto mi rifacevo all'esempio di prima dei soldati americani. Assolutamente. Sempre negativo. Ma in realtà conosco anche di aziende adesso che si stanno specializzando nella creazione di esperienze VR per l'addestramento di tecnici e installatori di attrezzature. Le aziende usano già videogiochi per i colloqui di lavoro, e le grandi aziende usano videogiochi che sono una sorta di The Sims, più o meno, come idea, in cui tu ti approcci al problema in un videogioco e loro vedono a seconda del tuo gioco. E non mi stupirei se in futuro lo facessero col VR. No, ma qui, tra l'altro, a Sobo proprio c'è un team dedicato a sviluppare un software di realtà, vabbè, non è realtà virtuale, ma realtà aumentata, per le centrali nucleari, per evitare zone pericolose o visualizzare informazioni mentre cammini con il visore. Quindi anche roba industriale tosta, non solo di studi psicologici. Sì, sì. E l'approccio che cambia col VR da un punto di vista medicale è il fatto che può essere utilizzato per cose che possono essere, per esempio, in modo stupido, la riabilitazione. E ci sono alcuni studi l'ultimo che ho visto prima di chiamare voi era del 2018, che magari posso anche linkare, che parla di, tira un po' le somme di quello che può essere la realtà virtuale associata a riabilitazione dopo interventi chirurgici o dopo problemi, incidenti o cose del genere. E il vantaggio che c'è rispetto a fare la stessa riabilitazione nel mondo reale, che comunque potrebbe essere anche una soluzione, ma in realtà... Il VR da una parte è più divertente, perché puoi associare alla riabilitazione tante cose, tanti contesti, tante ambientazioni che non sono reali e di solito sono più interessanti per le persone. E da un'altra parte ha un come si dice in italiano? Può essere, insomma, gli stessi strumenti utilizzati per una persona possono essere utilizzati per un'altra persona allo stesso tempo. Ah, sì. Ah, ok. Cosa che nel mondo reale non puoi fare perché dovresti... Riusabilità. Riusabilità, grazie. tutto sto casino è perché io ho preso appunti in inglese mentre facevo... E ora mi tranquillo. Noi siamo un podcast multilingue. Quello che fa fatica al VR ancora a risolvere è quella che è quella che viene chiamata la riabilitazione assistita da robot o da strumenti che possono, da macchinari che possono aiutare la riabilitazione, però è un settore molto nuovo ed è molto interessante, ma anche per esempio quello che può fare una persona a distanza, quindi con VR puoi fare il tuo lavoro anche da un'altra parte con una macchina associata ai tuoi movimenti. Senza coronavirus. Certo. Senza coronavirus, cioè io potrei andare in laboratorio col VR, sarebbe un'estrema figata in questo momento. Dai, ancora qualche anno. Io ho visto un esperimento più psicologico su come costruire un quartiere per calmare la gente dopo il lavoro, cioè per fare quando tornano a casa, per calmare di più le persone, lo stress, eccetera. Quindi proprio studio di architettura di, come si dice, non architettura singola del palazzo, proprio architettura del quartiere, non so come dire, vabbè, di urbanistica, come si urbanistica. Dice? Sì, urbanistica, penso che sia giusto. Maledetto Jacopo che mi fa venire voglia di comprare... Che cosa? SimCity? No, Pixel Architect 2. Ah, Oculus Quest. Maledetto Jacopo. Sì, è molto interessante ed è molto nuovo. E tra l'altro ci sono un sacco di studi anche su quello che è il contributo. Rendono tutti gli studi di... com'è che si può tradurre kinematica? Di, diciamo, movimento, cinetica, quello che è scienze motorie, ma non riferito all'allenatore di basket, ma riferito appunto a come il cervello muove i muscoli, li rendono molto più accurati, perché il movimento fatto in VR può essere un movimento anche con un fine, per cui se per esempio il paziente o il soggetto sta giocando a tennis nel suo VR, questo è un esempio stupido che ho fatto io, Edoardo Saladini, non che è pubblicato, però il suo approccio al movimento è molto diverso rispetto a un movimento emulato, e allo stesso tempo lo può fare in un laboratorio in cui può essere registrato l'impulso nervoso, lo stimolo nervoso, eccetera, eccetera. E tutto questo deriva dal VR utilizzato nei videogiochi, quindi il fatto che il VR sia così basso prezzo e ci siano fondi per sviluppare sempre una tecnologia sempre migliore rendono la ricerca molto più semplice da questo punto di vista. Che altro? Ho altri due argomenti di cui parlare. Una roba veloce sempre sul VR in generale, e allo stesso tempo ci sono alcune cose in cui il VR non funziona. E, per esempio, è stato utilizzato il VR in alcuni studi per la riabilitazione o per, insomma, possiamo chiamare la riabilitazione di malati di Parkinson, e il VR non funziona. Cioè, la riabilitazione fatta in questo tipo non funziona, e neanche la terapia fatta con videogiochi, per esempio per aiutare a coordinare meglio occhio, mano, eccetera, non funziona. Serve un approccio più reale alla cosa. È interessante, magari funzionerà in futuro, magari bisogna semplicemente trovare la chiave, però ci sono ricerche anche in questa direzione. E anche qua, anche di questo, io ho dei lavori che magari posso mettere, non lo so, vediamo. Allora, dicevo, altri due argomenti di cui parlare. Scegliete voi da cosa cominciare. Volevo parlare un attimo di sports in generale. So che voi poi volete fare una puntata sugli sports, quindi io non era solo relativo a questo. E poi una parte su invece sulla ricerca di base, che magari è un po' più noiosa per voi, ma... Cosa intendi per ricerca di base? Sono curioso. Allora, in questo podcast voi siete abituati a sentire parlare due ingegneri, che quindi... Oddio! Hanno un approccio alle cose che è molto pratico. Cioè, anche Jacopo mi dice, VR, sì, fare costruire robe. Ha senso? Ed è la cosa più utile, ed è la cosa che vende di più al momento, ed è la cosa che, insomma, rende più produttivi e aiuta a fare soldi. Però non è esattamente il mio approccio alle cose, perché io sono più un teorico, diciamo. Mm-hmm. E, essendo io abituato a fare solo ricerca di base, ovvero ciò che non è applicabile in realtà, ma ciò che aiuta solo a conoscere lo scibile, cioè aumentare lo scibile umano e non a produrre cose o a vendere oggetti. Aumentare lo scibile umano, Madonna, quanto sono che non sia il mio podcast e posso dire ste minchiate. La cosa più interessante che ho visto di applicazione dei videogiochi è il fatto che venga utilizzata per scoprire come il cervello umano apprende nozioni e concetti. Figo. Ovvero, semplicemente viene studiato come o quali aree del cervello vengono stimolate, in che momenti, in che intensità, e quando appunto la persona, il soggetto, il paziente, eccetera, e impara cose nel videogioco, perché appunto il videogioco ti impone sempre di imparare cose nuove, perché ovviamente tu approcciandoti, è vero, c'è un po' di identità e un po' di cose uguali in ogni videogioco, però anche cambiare tipo di videogioco e passare da un action a un strategico prevede che tu impari un sacco di robe, e robe relative a diversi tipi, sono diversi tipi di conoscenza, quindi non è semplicemente una conoscenza applicata, insomma una conoscenza di lore, di cose generali e di nozioni, ma anche applicata a una sincronizzazione tra la mano e l'impulso dello stimolo visivo, acustico, eccetera. È veramente interessante questo argomento. A tal proposito mi hai rifatto ricordare uno studio fatto su come fregare il cervello umano con il VR. Praticamente avevano delle scatole di carta. Tu è come fosse Minecraft praticamente. Tu potevi prendere una scatola e spostarla in un altro punto. E tu dici, va bene, c'è un tavolo e queste tre scatole. L'unico modo che puoi, cioè, scusami, no, tu hai solamente una scatola su questo tavolo. L'unica cosa che puoi fare inizialmente è prendere e spostarla in un altro punto del tavolo. Quindi hai questo blocco tipo di Minecraft, di terra, e lo sposti. Sono riusciti a fregare il cervello e a convincerlo che tu questa scatola potevi prenderla e spostarla sopra un'altra scatola che in realtà non esisteva. Cioè, questo qui si vede nel video che prende la scatola, la posiziona in un punto, poi un'altra persona prende quella scatola che ha spostato, la mette in un altro punto, lui nel visore non vede che quella è sparita e si è spostata, ne vede un'altra comparire in un altro posto, la prende, e per come hanno cambiato il movimento interno al gioco della mano e del braccio e della scatola, lui è convinto di sta spostando la mano verso sopra la scatola che aveva messo prima. Non so se mi spiego, forse dovrò farvi vedere il video. Più o meno ho capito. Cioè, per come il cervello aggiusta continuamente i nostri movimenti in base anche a quello che vediamo, perché è quello che il cervello considera come come dire, come sensore primario, no? Cioè, i nostri occhi sono la cosa che il cervello si fida di più, tra virgolette, spesso. Riuscivano a fregare la persona, a convincerla a spostare questa scatola in un punto che in realtà non esisteva. Una roba interessante sarebbe anche vedere dopo come il cervello reagisce al fatto che, cioè quando lui capisce che la scatola non esiste, come reagisce il cervello e come rielabora questa informazione, cioè nel senso come dice, ok, non esiste perché magari avrei dovuto vedere che o bla bla bla, come impara da questo errore. Esatto. No, un sacco figo. molto interessante. Non so se era questo che ti riferì, che stavi dicendo, Salla, però. Sì, cioè molto, anche molto più in generale su come il cervello appunto impara a fare questa cosa qua. Perché alla fine noi vediamo un sacco di applicazioni dei videogiochi su come, cioè cioè noi, il programmatore è più pensato a scrivere o a immaginare come spiegare alla macchina che cosa fare, ma in realtà questo progetto di come spiegare alla macchina che cosa fare, noi non sappiamo come viene spiegato al cervello nostro. Ah, il sì. Videogioco, e il videogioco in questo modo ci aiuta, perché il fatto che tu seduto alla tua scrivania debba imparare a fare una roba nuova, e questa roba nuova è standardizzata, nel senso che tu decidi che tipo di input vuoi dare, per cui se deve essere, non so, una appunto coordinazione della mano, con imparare a come coordinare la mano per fare una roba, e, è un'occasione per vedere come, cioè, come insegnarlo, come il cervello lo impara a fare questa cosa. E questo poi ti porta a fare gli inganni della scatola, per cui se tu sei bravo a capire come cavolo fai a rielaborare questo tipo di input, allora puoi anche ingannarlo e fare quello che ti pare. E sì, era questo che volevo dire. Basta. Ok. No, e tutto questo si ricollega agli sports, perché il fatto che gli sports abbiano dato un fracasso di soldi all'industria videoludica rende questo tipo di ricerca molto più facile da fare. E perché di fatto che cosa fa? Se tu capisci come insegnare al cervello a fare queste cose, oppure qual è il modo migliore, il modo più semplice per insegnare a fare queste cose, allo stesso modo tu puoi allenare il tuo sportivo a fare questo processo. Merda, è vero? E quindi quello che succede è che il mercato paga... la ricerca, e questa cosa funziona, e quindi bene. Merda. E basta. E niente, spero di non avervi annoiato troppo. No, cavolo. No, anzi, molto ci interessante. Come promesso, ci hai distrutto con la tua conoscenza, ci hai... No, non è, adesso non so, ho preso solo esempi a caso, poi magari provo a mettere... Ma Jacopo, lui cerca solo di aumentare... Lo scibile. È vero. È vero. Assolutamente. Ma non è questa la mia materia, quindi in realtà non faccio questa cosa qua. Però adesso mi spiace, Salla, ma è giunto il momento. È arrivato il tuo momento preferito. Questo è il momento che aspetti in ogni podcast con ansia. No, non voglio. Assolutamente. Sei costretto, questo era nel contratto. Quando, come ospite, filmare... Hai avuto la tua anima come ospite. Tecnicamente per i prossimi 40 minuti ti... Kept you waiting, huh? Sei saltato, quindi no, è il momento perfetto, vabbè, per mettere la sigla. Grazie, Marco. ho appena messo la sigla in quella pausa di Discord mentre parlavi. Siamo arrivati al momento Kojima che molti aspettavano, non Salla, e in realtà non c'è molto da dire, perché come Salla sospetta e sostiene, Kojima a volte è un po' un come dire, uno che se la tira un po', che dice una fracca di stronzate, no. Senza sapere che cazzo dice. Tra l'altro le dice in giapponese, perché a quanto pare non parla inglese. No, lui si vergogna. Questo che ha funzionato, sinché noi non lo capiamo. Esatto. Cavolo, intelligentissimo quello, sa parlare giapponese. Come cazzo fa a sapere giapponese? No, lui parla inglese, ma si vergogna, quindi non lo parla mai. Cioè, potrebbe parlarlo, ma... D'altronde è una delle persone più famose, appunto, di... Vabbè, ok, comunque... Andiamo. Comunque sì, la cosa interessante di Kojima e la scienza è che nei suoi giochi c'è quasi sempre un elemento pseudoscientifico. Questo lo pseudo. Molto, molto, molto, molto pseudo. Quindi ricollega un po' degli elementi filosofici a roba scientifica. Da sempre, cioè, almeno ci prova, mettiamola così. Perché nel caso di Metal Gear Solid, nella storia... diciamo, il macro tema della saga di Metal Gear Solid, secondo me, è sempre quello dell'eredità. Cosa una persona può lasciare in eredità. Mm-hmm. E la risposta dipende dal gioco. In Metal Gear Solid 5 è il linguaggio, Metal Gear Solid 3 sono gli ideali, quindi a volte sono risposte filosofiche un po' romantiche del cazzo, che a Salla fanno venire il cancro, a volte sono cose un po' più sensate, tipo in Metal Gear Solid 1 e in 2, cose un po' più scientificamente provate, diciamo. Ma tipo mi fate, perché io purtroppo, o per fortuna, non ho mai giocato un gioco di Kojima in tutta la mia vita. Allora, il Metal Gear Solid 1 posso spiegarlo io perché è veloce, il Metal Gear Solid 2 te lo devi spiegare Marco perché è complicato. Allora, il Metal Gear Solid 1 l'idea era che quello che una persona può lasciare, in realtà l'unica cosa che può lasciare sono i geni, che i geni, la tua genetica, sono l'unica cosa che tu puoi donare, tra virgolette. Grazie a Dio, col fatto che noi siamo una società e che esiste il linguaggio, non è vero, però sì, ok. No, non è vero, però a livello diretto, a livello di, come dire, cosa passa di padre in figlio in termini di... Esatto, era proprio quello che intendevo. Non apriamo questa parentesi, va bene? No, questa era la risposta dell'uno, ed era una risposta, tra virgolette, anche lì sbagliata, perché nell'uno... ci sono tanti lati negativi nell'utilizzare i geni per ricreare dei soldati, per tipo classificare un po' le persone e ucciderle o cioè pensare, ah, questo è un super soldato, allora lo cloniamo. Di che anno è questo videogioco? Anni 90? 98? Esatto. No, era del 98-99, mi sembra, se non sbaglio. Mi sembra, devo ricontrollare, non vorrei dire una cagata. E quindi c'era un po', capito? C'era ancora la pecora Dolly, capito? Ste cazzate, no, esatto, qua. Cioè, è uscito Gattaca. È una risposta un po' semplice, ma anche un po' pessimista del fatto di classificare... Cioè, del 98. Di pensare che una persona è solamente i suoi geni, che puoi semplicemente replicare i geni e replichi la persona. Per fortuna poi è arrivato il 2 che ha dato una risposta ancora peggiore. Per fortuna ha capito che è una stronzata e quindi... Esatto. È arrivato il 2 che secondo me ha dato una risposta ancora peggiore, però più interessante, più futurista, più... Se mi permetti, volevo dire, giusto per spiegare anche a Sal e a tutto il pubblico, che effettivamente è stato Kojima stesso che ha detto... Che ha detto? Mi sentite? Ti sei tolto dopo aver detto... Che ha detto? Ok. Dicevo... Kojima stesso ha detto che ogni gioco della saga di Metal Gear Solid ha un tema. Solo la sensibilità del microfono, Marco. Non lo so, ogni gioco della saga di Metal Gear Solid ha un tema. Ha un tema. Nel primo, un tema. Sì, ha un tema di preciso. Okay. Il primo, come diceva Jacopo, è quello dei geni, ovvero che cosa viene passato alle generazioni successive tramite il codice genetico. Il secondo, invece, è quello dei meni. Ovvero. Meno. Esatto, ovvero questo l'ha fatto, ottima domanda. 2002? Vabbè, più o meno. No, in realtà è interessante, Metal Gear Solid 2 è molto, oh, è molto attuale in realtà, paradossalmente. La teoria dei meme però è abbastanza vecchia, avrà 30 anni. Sì, sì, però è molto attuale per come l'ha applicata. Ok. Esatto, è uscito nel 2001, Metal Gear Solid 2. E la teoria dei meme, cioè l'idea, anche le idee, l'ideologia delle persone possano, come dire, procreare, svilupparsi e diffondersi un po' come un virus, per restare in tema. Avrei detto gene, però sì. E appunto parla di questo videogioco, parla di come l'umanità possa essere influenzata da forze superiori. Qua si va un po' in fantapolitica e pseudoscienza, si parla di intelligenza artificiale in grado di controllare il traffico delle informazioni e di modificare l'opinione pubblica per al loro vantaggio, diciamo. Cosa che stato... 14 anni dopo effettivamente è stato abbastanza. Però era giusto per dire che anche Kojima riesce a utilizzare, come diceva Jacopo, pseudoscienza non precisa nei minimi dettagli, rielaborata per riuscire a portare dei suoi... No, ma in realtà ci sta, cioè fa parte di quello che è il bagaglio scientifico di quegli anni, quindi non è neanche sbagliata come idea. Assolutamente. Come se io nel 1600 dicessi, ah, perché vedi che il sole, vabbè, niente. No, ma era interessante parlare di saturazione dell'informazione con robe inutili, tipo, che ne so, tutte le informazioni che riempiono social media, tutte le cose che vengono caricate dalle persone che riempiono, cioè che ormai costituiscono, secondo Kojima, la maggioranza dell'informazione disponibile, non la minoranza. Cioè la maggioranza dell'informazione è inutile, è rumore. Mm-hmm. La capacità di filtrare e manipolare il rumore ti dà il potere sulle persone, perché il potere non è solamente nei geni, ma è anche nella memoria, cioè anche in quello che le persone... Sì, ecco, questo non è nella teoria dei meme, però sì, ha senso, ok. Cioè, come esatto, in questo senso come l'ha applicato era interessante, cioè, perché si è rivelato solito, vero. Come al solito la teoria dei meme è lo strumento, poi ognuno ci vede. Vuoi spiegare? Dottor Salla vuole spiegare? Ecco. Spieghi la teoria dei meme. Expertise. No, beh, è quello, però non è che c'è una connotazione positiva o negativa, cioè è il fatto che l'idea possa trasmettersi molto più velocemente del patrimonio genetico e quindi che sia la società in sé, l'informazione in sé ad essere la vera eredità del genere umano. Cioè la capacità di evolversi che ha la genetica è molto più lenta rispetto alla capacità di evolversi che ha l'informazione. E quindi è qui che risiede il successo dell'evoluzione umana. Però non ha una connotazione negativa o positiva. No, no, certo. È semplicemente un'idea. Poi tu appunto ci puoi vedere, ah, ok, quindi questo vuol dire che ognuno può manipolarla come vuole. Oppure questo vuol dire anche che tu puoi, che cazzo ne so, insegnare cose giuste in modo semplice. Mm-hmm. Sì. Quello che volevo fare presente io era che concetti scientifici come questi, che hanno fatto molto scalpore ai propri tempi, ma che comunque sono concetti scientifici, sono teorie, sono studi, così, possono essere usati per non sviluppare una storia interessante che ti fa emozionare, diciamo, e questa è una cosa che succede anche nel mondo dei videogiochi. Ah, certo. Nel mondo dei videogiochi, tutto questo. Sì, sì. Però puoi anche farlo male, puoi anche farlo... Ma quindi Kojima cavalca un po' l'onda del coso, perché adesso ha fatto questo qua, Death Stranding, che è assolutamente sulla tragedia e la cosa. Sull'ecologia, sì, sì. Esatto. Sì, sì, sì, ci sta. Infatti, sì. È un insieme di roba scientifica, tipo parla di ossitocina, vabbè, lasciamo perdere. Ricordiamo, è stato tradotto in italiano male il gioco. È stato tradotto come mi piacina. No, cioè, non ho capito perché, ma va bene. parla di robe scientifiche, ma sì, nell'ottica dell'ecologia, del salvare il pianeta, esatto. Ricollegarci e tutto. Parla anche, forse c'è un po' uno sviluppo di... No, beh, non si può parlare di robe veramente scientifiche, un'idea del network chirale, di qualcosa che forse... quello che potrebbe succedere nei prossimi anni in termini di tecnologia, molto parafrasata, ma l'idea di un network in grado di trasferire un bacio di informazioni e da questo poter poi creare reti in grado di produrre materiale anche a distanza con stampanti 3D e cose più. Non credo proprio, però sì. Non ai livelli di Kojima, ovviamente. Certo. È comunque una possibile... finestrella sul futuro, diciamo. Scusate, ascoltavo il vostro episodio lunghissimo di 2 settimane fa, cioè di non lo scorso, quello prima. Quello lungo 2 settimane? Cioè quello lungo 2 settimane, esatto, 2 ore, che è il terzo, mi pare. Mm-hmm. E mi fa piacere di non essere solo ad ascoltare i nostri... E in cui parlavate di Kojima e dell'input, eccetera. E stavo pensando, quella roba lì del tizio che per... il boss che per sconfiggere ha bisogno di cambiare Switch. Sì. Come è spiegata in termini di gioco? Nel senso, se tu lo conosci da un amico che l'ha già fatto, che l'ha già risolto, ok. ma tu da solo col tuo cazzo di joystick, come dovresti accendere questa cosa? Cioè, devi chiamare, hai dei numeri, dei contatti che puoi chiamare, che avevi sia sul retro del gioco, sulla copertina, mi sa pure nel libretto di istruzioni. Sì, giusto. Tu allora, chiamavi dei numeri su codec, delle persone che ti aiutavano, ti davano degli indizi su cosa fare. Sì, okay. Per spiegare un po' meglio, dicevo, c'è, cioè, come meccanica di gioco c'è proprio questo codec, che è uno strumento di Snake e dei personaggi di supporto. E parlando con loro tu scopri, oltre alla lore del mondo e informazioni su armi e cose del genere, anche in certi momenti di gioco ci sono questi personaggi che parlano con te e ti danno dei suggerimenti su come andare avanti. Ok. No, vi spiego perché ho fatto questa domanda, perché invece alla luce di quello di cui avevamo parlato prima, ovvero come il cervello apprende nuove informazioni e risolve problemi, mi immaginavo una roba un po' più, insomma, un po' più, come dire, istintiva. No, sì, ma anche elegante. Una maniera più spiegone, elegante. Mi aspettavo, cioè, per esempio, noi adesso abbiamo giocato recentemente, tipo, ieri nella nostra linea temporale, a un parco di tempo insieme, ed è interessante come loro cercano di spiegarti senza tutorial tutte le cose che devi fare, per cui gradualmente, ma anche non, o anche tipo trial and error, quindi lo provi, fallisce, capisci che perché è fallito, ti insegnano la cosa. Mi chiedevo se una roba così elegante come, cioè una cosa così interessante come il cambio di switch avesse anche una roba elegante. Allora, la roba elegante è che, tra virgolette, è che il personaggio che stai combattendo fa dei riferimenti alla tua scheda di memoria, tipo ti dice i giochi che hai giocato che sono dentro, ti cambia il canale della televisione, cioè ti fa capire che ha qualcosa a che fare con il rompere la quarta parete e con la presenza fisica della tua console. Quindi c'è... Sinceri. La rottura della quarta parete è un elemento molto presente nei videogiochi, soprattutto nella saga di Metal. Però in quel boss è all'ennesima potenza. Cioè. Assolutamente, per far capire a sala, tipo, ci sono dialoghi, magari non nel primo, ma tipo nel terzo o nel quarto, proprio di personaggi che dicono: Snake, se vuoi utilizzare le bombe a mano, ricordati di premere L3 oppure un altro pulsante del controller. Cioè, è palese la rottura della quarta parete come elemento di gioco, è un po' una mezza battuta. No, di ok, però stesso, sì, esatto, però non è che ti insegna a farlo in modo naturale, ti fa lo spiegone. No, assolutamente. Okay. No, quello è più uno scherzo. No, io dicevo di quel boss, cioè, di quel boss è più quello. E c'era un'altra cosa che potevi fare con quel boss, che ora non mi ricordo, che ti faceva capire che eri sulla buona strada. Non mi ricordo se era qualcosa che aveva a che fare con il controller, con l'analogico, però c'era un'altra cosina che ti dava un indizio mentre ci arrivavi, però sì, non era la cosa più naturale del mondo. Sì, anche perché devi capire che quella non era spesso, quindi c'è più che una cosa naturale, era una cosa una tanto, c'era solo quella boss fight che rendeva... Sì, era un po' una cogimata, una pesa per il culo. Era solo curiosità, perché lui assolutamente è uno che, insomma, cavalca un po' l'onda ed è bravo a fare il suo mestiere di venditore, e mi immaginavo che avesse studiato qualcosa di elegante, invece no. Ma va bene. No, ero solo curioso. Cioè, del tipo, non so, muovi il controller oppure lo stacchi, lo riattacchi e lui ti dice: ah, beh, bello, sì, ci può stare. Mi immaginavo una roba un po' più elegante. Oddio, forse se lo staccavi ti diceva: dove sei finito? Una cosa del genere pure. No, sì. Cioè, il personaggio reagiva al... Sì, no, vabbè. Alla tua cambiare il controller, assolutamente. Ero solo curioso. E vabbè. Oh, detto questo, che ci siamo. Al momento dei saluti. Esatto, grazie a Salla di averci dato questa idea e di averci condotto su questa strada. No, assolutamente. Cioè, io l'ho trovato molto interessante. E mi raccomando, i nostri ascoltatori, se hanno voglia di un podcast meno sapio, ma altrettanto cinico sul cinema, consigliamo di andare ad ascoltare Il mio salotto. Il suo salotto. Con membri protagonisti, il mio collega. Va bene, e quindi cari. Detto questo, un saluto a tutti e continuate a giocare. Alla prossima.